20.01, martedì 17 ottobre, siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa e sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. È la nostra sigla Undumpable di Moonchild Sanely, di cui vi diremo a un certo punto qualcosa, visto che non l'abbiamo presentata molto molto bene, ma abbiamo sentito che vi piace, quindi l'abbiamo tenuta. Come tutte le settimane, la nostra scaletta della puntata numero 63 di Likewise è piena zeppa di musica che ci fa piacere condividere con voi, noi che l'abbiamo ascoltata in queste settimane per preparare la playlist, album, canzoni, singole. Abbiamo litigato su chi mettere e chi non mettere. Siamo pronte per farvi ascoltare le 10 che abbiamo scelto per questa sera, giusto? Siamo prontissime, partiamo con Speedy Ortiz, Ranch vs. Ranch. Abbastanza rock, Speedy Ortiz, Ranch vs. Ranch, tratto dall'album Rabbit Rabbit, che è il nuovo album uscito il 1 settembre per la Wax 9. Ed è, insomma, era un po' di tempo che Sadie Dup, che è appunto la, diciamo, compositrice, chitarra, voce e anche, diciamo, l'idea, l'anima di questo progetto, che prima era un progetto solista, infatti. Esatto, che insomma l'album che si aspettava da circa 5 anni, insomma era un po' che non usciva niente di nuovo di Speedy Ortiz. Diciamo che in qualche modo si, per quanto mi riguarda, il mio giudizio su questo album si mette sul solco degli altri album, non aggiunge niente di nuovo, ma è molto piacevole da ascoltare. Sono bei pezzi che scorrono via velocemente. Lei è un personaggio talentuoso, come si dice, con molti talenti, non soltanto la musica. È una compositrice, come abbiamo detto, sì, una compositrice, ma anche una scrittrice sia di fiction che di poesia. Ah, fiction mi mancava. Ti mancava. E se vi interessa saperne di più, potreste cominciare dando un'occhiata alla sua rubrica dal titolo Book Club sul magazine online Spin, che è un magazine gratuito, quindi potete leggerlo quando volete. Ed è una interessante rubrica in cui lei sostanzialmente intervista prevalentemente artiste, musiciste, altre musiciste, e facendosi raccontare quali libri hanno ispirato la loro vita, la loro arte, le loro composizioni. Quindi molto interessante questo connubio. Molto interessante quello che dici tu. È anche interessante perché se è vero che appunto lei è l'anima della band, e che quindi in qualche modo il suono anche in questi 4 album, che invece hanno visto protagoniste molto diversi avvicendarsi appunto poi nell'accompagnamento sia dei live, dei tour che del disco, questo non abbia poi cambiato in fondo le melodie e gli arrangiamenti che hanno utilizzato, perché la band di fatto adesso è un po' più stabile dopo l'ultimo tour che hanno fatto, che hanno registrato insieme questo disco, però si è mantenuta insomma sul suo stile, quindi forse è veramente il suo progetto. Loro sono stati tantissimi in tour, tra l'altro hanno portato in tour, questa cosa mi piace perché alla fine vengono sempre fuori le connessioni di Likewise, hanno portato in tour con loro per aprire il loro concerto Mitski e Soccer Mami, che da queste parti sono passate e piaciute tanto, chi ascolta la nostra trasmissione un po' lo sa. E quindi è sempre carino ritrovare queste connessioni. Ha anche un progetto elettropop. Cosa mi mancava? Salt 13. Ah, ok. È il suo libro di poesie, che stavamo dicendo che appunto lei è poeta, è stato pubblicato esattamente l'anno scorso, si chiama Cry Perform, sui temi del dolore, della riduzione del danno, cosa di cui loro come band si impegnano anche durante i concerti dentro la comunità di Filadelfia, perché loro sono originari del Massachusetts, però si è spostata lei e anche i componenti della band che sono di Filadelfia, quindi adesso fanno base stabile lì e lavorano molto dentro la comunità su diversi temi, tra cui appunto anche la riduzione del danno. Questa è Ragnon Rossa e questa è Likewise. Lo sapete che potete scriverci a likewise@ondarossa.info, oppure potete farci sentire che ci state ascoltando in diretta 0649 1750, che è il numero della radio sempre per qualsiasi comunicazione. Prossimo pezzo? Yes, prossimo pezzo. AST, Black and Blue. Dining alone, sipping his wine. Dining alone, sipping his wine. Dining alone, sipping his wine. Sipping his wine. Meine Back hat's frisch aus der Box, wie geil siehst du sie funken. Reden und reden, ich lass sie bonken. 24-inch was down, honey blunt, ich schwör, ich bin blass. Halte den Kreis ganz klein, keine Zeit für Energy Fans. Wer rastet, rostet, genau deshalb mach ich ein Schuh. Ich glaub, ich trink mich heute nach Back in Blue. Ein Glas Rotwein für den Mond und ich burst mein Booth. Yeah. Midnight Boy, ich tanz auf dem Mond und du. Back in Blue. Back in Blue. Back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back and back Questa era la chiusura di Black and Blue, un nuovo singolo di Ace-T che ci eravamo persi, uscito un po' di tempo fa, ma volevamo farvelo ascoltare, anche perché come forse ricordate in questa nuova stagione stiamo mettendo un po' di musiciste della scena hip hop tedesca. In particolare lei viene da Amburgo e, pur essendo molto giovane, ha diciamo già un inanellato diversi singoli, diversi successi, e quindi insomma viene considerata una delle migliori voci e compositrici, esatto, di questa scena. Quello volevo dire, che in realtà è molto molto considerata nella scena rap di Amburgo. Tra l'altro è molto considerata perché lei ha origini, cioè nel senso, perché ha anche una bella storia personale, lei ha origini ghanese, quindi sta portando anche tutta una serie di sonorità, di pensiero, anche di parole sulla scena di Amburgo, prendendo parola appunto come nera e come, insomma, come tedesca nera, e quindi cose molto fighe. Del resto, diciamo, negli anni 90 comunque nel passato la scena tedesca hip hop è stata molto molto forte, continua ad esserlo, ma è stata prevalentemente dominata da, nonostante in realtà ci sia una grandissima varietà di musiciste e musicisti di tantissimi posti diversi, di origini diverse, di colori diversi, in realtà è stata sempre dominata da bianchi, in prevalenza maschi. Quindi insomma ci fa piacere presentarvi e farvi ascoltare delle voci diverse e insomma anche dei racconti diversi. Sì, non è uscito ancora un disco insomma vero e proprio, almeno lei non ha ancora tirato fuori un disco vero e proprio, però trovate in giro tantissimi singoli e trovate anche due EP, di cui l'ultimo è uscito a novembre dell'anno scorso. E questo, i singoli che abbiamo ascoltato, uno sono usciti a marzo, uno ad agosto, però è anche vero che questo, cioè i rapper comunque è facile che facciano uscire anche tanti singoli, tanti piccoli EP prima di poi lavorare a un lavoro più organico e più lungo, quindi c'è materiale da ascoltare, se vi è piaciuto andatevelo a cercare, perché a noi è piaciuto e ce li siamo andati ad ascoltare. Che ore sono, Clo? Sono le 19:13, siamo in diretta, questa è Radio Onda Rossa, state ascoltando Likewise e siamo in orario al pezzo numero 3 della scaletta di questa sera. E loro sono già passate da Likewise, ma hanno fatto un nuovo disco e quindi non potevamo non riproporle. Neo Kawaii Chai. Why are you looking at me? I'm not who you think. Please call me Neo Kawaii. Why are you in love with me? I ain't just a girl. Please call me Neo Kawaii. This is just my body. No, a changey body. I said it just a baby. Watashi no mama. This is my way. I know humble always. There's no single hair. That's not necessary. Just walk away. una band che ci piace un sacco. Loro sono quattro mattarelle, Mana, Kana, Yuki e Yuna, con questo pezzo Neo Kawaii. Mana, Kana sono gemelle. Sì, Neo Kawaii significa, cioè, kawaii sarebbe tipo cute, bello, divertente, strano. Nuovo bello. Nuovo bello, esatto. Ed è il singolo che preannunciava, è uscito il 2 agosto scorso, preannunciava l'album uscito omonimo, uscito tra l'altro per la Sub Pop il 22 settembre scorso, quindi insomma fresco fresco, quindi non potevamo risparmiarcelo. No, noi le abbiamo ascoltate invece con il loro disco precedente che era uscito nel 2021, che si chiamava Wink, era il loro album, e ci piacciono molto. Pubblicano con un'etichetta importante che è la Sub Pop Records, hanno voglia di fare la loro musica, di portarla in giro per il mondo. Per tutte le altre notizie biografiche io vi rimanderei alla puntata numero 27, dove le abbiamo messe, quindi se volete sapete che potete recuperare tutti i podcast di Likewise dal sito della radio, ondarossa.info, se mettete il tag Likewise vi viene fuori. Vi ho detto anche che numero è, quindi super facile. E poi magari beccate una scaletta e non vi ricordate più, no? Ed ecco che rimanete incastrate. Esatto. Allora, siamo al quarto pezzo, mi sembra. Stiamo andando proprio 63esima scaletta, insomma. Qua i numeri cominciano ad essere importanti. Che dobbiamo fare a 100 puntate? Ditecelo. Infatti, idee per la 100esima puntata. Brava. Altra giovane musicista, lei si chiama Ivory. E il pezzo si intitola Brain Rot. Un singolo uscito a fine agosto da parte di Ivory, appunto, di cui io so che è una giovanissima newyorkese, o almeno a base a New York, anche se non so da dove viene. Poi magari ti no, è vero, ci sono pochissime notizie biografiche. Lei è molto molto giovane, ha iniziato, diciamo, con la musica prestissimo, da quando aveva 15 anni. Ha cominciato a pubblicare le sue cose, come spesso fanno i giovani di oggi, sui social. Ha cominciato i giovani di oggi che non siamo noi, comunque. È vero, però, cioè, che la generazione che è nata, diciamo, con a disposizione tutte queste tecnologie, comunque ha iniziato a pubblicare sui social le sue cose, che hanno cominciato a girare tanto. È stata campionata addirittura da numerosi produttori di tutto il mondo, così almeno ho letto. Sì, perché aveva messo un paio di singoli su, diciamo, un social piuttosto famoso, aveva avuto milioni di ascolti e quindi, insomma, chiaramente, come succede quando la gente si abitua, il famoso passaparola. Sì, comunque, insomma, un certo brano diventa molto famoso, allora chiaramente è utile utilizzarlo e farne un sample. Quindi sì, dovrebbe uscire quest'anno. Dopo domani. No, adesso, dopo domani. Ah, ecco, io non l'avevo trovata la data. Bravissima. Adesso subito. No, esce il 19 di ottobre. Ah, dovrebbe uscire il 19 di ottobre il suo primo EP di debutto con un'anteprima. È un'anteprima. Non dici niente. Esatto. E non diciamo niente. Questa è un'anteprima di Likewise. Esce fra due giorni l'EP di debutto di questa giovanissima artista che vi stiamo proponendo. Quindi avrete modo anche di ascoltare altre cose sue. Nelle sue canzoni parla di diverse cose: l'universo, la spiritualità, la salute mentale, che è un tema che sta molto a cuore. Abbiamo scoperto alle giovani cantautrici, anche alle meno giovani cantautrici, ma alle giovani particolarmente. E quindi al 19, dai, manca due giorni, esce. Ascolteremo come ha messo insieme questi vari singoli e questa esperienza anche di successo mediatico. The Star Factory si chiamerà l'EP. Ah, però grazie, Pico. Prego. Ma questa volta mi ha battuto. E ora ascoltiamo il mio pezzo preferito della scaletta di questa settimana. Lo sospettavo. Alli Calli con Picture Persona. Solipsistic shit, that's rich. Little Miss Histrionic Personality Disorder, non-political marauder. It's a shame, it's a bummer. Ticking time bomb, no one ever stays. Young decay knocking at your door, ding dong. Significant song, suck it up like a sponge. You purge, come on, get your stomach pumped. Declare all the calories you burn. VIP in your diary, reads just like Vanity Fair. First of all, I'm glad that you enjoyed the show. Now take a bow, strike a pose, collect your skull. Taking time bomb, no one ever stays. Young decay knocking at your door, ding dong. E questo era il pezzo preferito della settimana di Pinklo qui alla 63esima, durante la 63esima puntata di Likewise. Halli Kali con Picture Persona. Vi dobbiamo dire che non sappiamo nulla di questa musicista, cioè, nonostante pochissime. Abbiamo navigato il web in lungo e largo per cercare di capire un po' più chi è, chi non è. Ma questa canzone ci piaceva talmente tanto che non potevamo non metterla. E poi così ci ricordiamo, facciamo tipo un promemoria, perché sicuramente poi uscirà qualche cos'altro, qualche singolo. Sappiamo che è un'artista tedesca, sicuramente una produttrice oltre a essere una musicista, ma non sappiamo molto altro. A me mi ricorda Shirley Manson, mi sembrano i Garbage 2.0 in versione anche migliore. Niente, quasi da dire. Interessante. Sì, cioè questa, diciamo, è molto interessante perché ha questa anche questa parte cupa, no? Nell'arrangiamento musicale. Sì, tipo i primi Garbage, quelli con dell'album con le piume rosa fucsia, che credo fosse omonimo, mi pare che si chiamasse Garbage. Sì, non c'è niente, non c'è neanche un live, ci sono un po' di singoli in giro sui vari, diciamo, sulle varie piattaforme musicali, quindi qualcosa riuscite ad ascoltare. Un altro singolo è quello che ascoltate in sottofondo e che andrà ad arricchire la nostra scaletta delle B-sides. Come sapete, noi facciamo veramente tanta fatica a volte a scegliere quale pezzo. No, alle volte litighiamo però perché voglio mettere una canzone e vuole mettere l'altra, no, mettiamo questa, no, mettiamo quell'altra. Però. E quindi, insomma, è molto difficile a certe volte lo sapere. Poi Likewise anche funziona anche così. E quindi quelle che sono nelle B-side, insomma, che non ce l'hanno fatta, comunque in realtà sono un pezzo di Corazon. Quindi ascoltate. È molto sensuale la ragazza, ci piace. Aspetteremo qualcos'altro. Nel frattempo invece passiamo a un grande gruppo. Io personalmente ci sono affezionata, mi ha riportato un po' indietro nel tempo di sentire la sua voce, che era un po' di tempo che non ascoltavo musica loro. Sono i Blonde Redhead con Sit Down for Dinner Part 2. Come home now. E questa era la voce meravigliosa di Kazu Makino per diciamo il decimo album in studio della band americana italiana Blondhead Head, naturalizzata che... americana comunque, esatto. L'album si chiama Sit Down for Dinner ed è uscito per la Section One lo scorso 29 settembre. Allora, per chi non conoscesse Blondhead Head, i Blondhead Head sono una di quelle, conoscessi Blondhead Head si deve andare a fare tutto un lavoro di ricostruzione della carriera, degli album, risentitevi, allora, tutto, esatto, anche no, perché non sono tantissimi, sono una decina, 10. Questo è il decimo, quindi si può fare. E loro sono nati nel 93 a New York. Devo dire che hanno fatto parte del mio primo periodo a Roma, quindi li ricordo con molto affetto. Con le coinquiline a casa giravamo il disco del Melody of Certain Domain a rap, cioè proprio a ruota e loop totale, quindi e ci sono affezionata anche a Misery is a Butterfly, ed era il disco che pubblicarono, il primo disco che pubblicarono con la 4AD. Il loro suono, devo dire che si è un po' ammorbidito, è meno noise, meno chitarre elettriche di quello che avevano in gioventù, però queste melodie sbilenche e la sua voce, la voce di Kazu, sempre inconfondibile. Quando li riascolti al secondo giro dell'album dici sì, sono loro, ti ci si piacciono, apre il cuore, esatto, ci piacciono sempre. L'altra, diciamo, una delle key al basso che insomma hanno fatto un po' la storia degli anni 90 e dei primi anni 2000, almeno musicalmente per alcune di noi, sicuramente appunto è Kazu, la sua presenza, la sua composizione, il suo modo di stare sul palco. Penso che i Blondhead Head per un periodo suonavano dappertutto, io l'ho visti non so quante volte, veramente sono tra le band che ho visto di più live, e devo dire insomma che mi sono piaciute di più live, perché erano veramente molto, sono sempre state molto vicine al pubblico. E questo album si chiama Sit Down for Dinner. Il titolo di quest'album ha un significato particolare. Nasce un po' l'idea, il concetto di questo album durante questo, come molti altri, durante periodi, il periodo che abbiamo passato assolutamente assurdo, e un periodo in cui come racconta Kazu, lontana dal suo Giappone e dalla sua famiglia, pensava ai diciamo al sedersi a tavola a cena e parlare, guardarsi negli occhi e parlare delle cose. E quindi siccome Amedeo e Simone Pace, che sono gli altri due componenti della band, anche loro hanno questa come dire, bella abitudine molto italiana che evidentemente hanno conservato anche in America, di fermarsi, sedersi e parlare, non avere disturbi, televisioni e altre cose, è anche un invito proprio a sedersi e guardarsi negli occhi mentre si condivide una cosa bella. Bene, ci piacciono i Blondhead Head, se appunto non li conoscevate recuperateveli, se vi è piaciuta questa canzone ascoltate il loro ultimo disco, secondo me se ascoltate l'ultimo disco volete ascoltare anche gli altri, così è un po' una previsione che faccio. Sono le 19.34, quella che state ascoltando è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming in tutta Italia su Onda e nel mondo in realtà su ondarossa.info. Sapete che potete sostenere la radio, vero? Eh? Basta che andate sul sito, sostenici, e trovate tutti i modi per aiutare questa radio che, come sapete, non ha pubblicità, non ha sponsor, non ha padroni, padrini, insomma non c'ha niente, manco i soldi infatti, quindi aiutateci. Siamo al settimo pezzo, Pinclo. Beh, siamo in orarissimo, quelli di Note e Cose Città saranno felicissimi questa sera che hanno la seconda puntata, vi riporteranno a New York, quindi non ve li perdete. E andiamo. Lei si chiama Allegra Krieger, Lingering. The street looks in a Allegra Krieger, Lingering, cantautrice newyorkese. Tu mi prendi in giro sempre per queste cantautrici. No, non è vero, io ho passato un'adolescenza a ascoltare sta roba depressiva. No, dai, queste canzoni melanconiche, dai. Esce con questo I Keep My Feet on This Fragile Plane, che ha riscosso molte critiche positive. A me, lo sapete che insomma, a me piacciono un po' queste cantautrici un po' prolisse, un po' chiacchiero, che riempiono di testo queste ballate, queste piccole canzoni. Comunque queste... io sono cresciuta con Joni Mitchell, tra le altre, quindi c'è un senso, mo, non proprio la dire che siamo, cioè insomma, cioè, Joni Mitchell, vabbè, Allegra ancora c'ha da macinare, però insomma appunto vabbè. Dico, quindi no, nel senso, d'accordo. Esce per la Double Double Whammy, che è un'etichetta newyorkese dal nome fantastico, e che cura uscite come The Florist, Frankie Cosmos, che insomma sono delle artiste passate da queste parti, per farvi capire il tipo di selezione. È un cantautorato molto curato, e quindi magari che volete andarvi a piluccare, a controllare, a guardare, se vi interessa. È carino perché lei ha fatto insomma, insieme a questo disco è uscito anche un EP con Fragile Plane, che ha le B-side, quindi è carino, quindi si vede che aveva molte canzoni e non voleva insomma un po' perderle, e quindi quelle che non sono entrate poi nella lista finale del disco in realtà le ha messe in questo piccolo EP di B-sides. Lei ha una storia in realtà molto interessante, perché lei è cresciuta, adesso è un po' stabile a New York, ma in realtà lei è una ragazza che ha girato moltissimo, una musicista che ha girato moltissimo, e ha fatto, in realtà è arrivata alla musica dopo, è cresciuta tra la Florida, la Pennsylvania, poi suona il pianoforte classico perché cantava, e comunque ha passato un'infanzia nella chiesa e cantava nel coro, e poi è andata a vivere nella Death Valley, è stata in Andalusia, insomma ha girato molti luoghi, e il lavoro che faceva prima di iniziare in qualche modo a concentrarsi sulla musica e le sue composizioni era quello di piantare alberi nella Carolina del Sud e della Georgia, un lavoro che lei ha raccontato, sono molto affezionata a quel periodo della mia vita, ma è stato anche un periodo molto faticoso, era anche molto da sola, e la musica è stata una di quelle cose che in qualche modo mi ha fatto compagnia. Ovviamente ho imparato a suonare la chitarra, perché il pianoforte certamente era scomodo era un attimino scomodo da portare in giro, e Quindi ha cominciato a comporre. Poi a un certo punto si è fatta questa domanda, dice: ma io un po' cosa voglio fare, cosa sto facendo? E dice: ma c'ho un po' di canzoni, quasi quasi vado a New York, perché insomma a New York aveva anche un po' di persone, di conoscenti e di parenti. Quindi è andata a New York, alla fine si è innamorata della città, ha iniziato a suonare, a fare dei live, a registrare la sua musica e si è fermata a New York. Infatti nel suo lavoro c'è tanto di questo, appunto, dentro, fuori, questi spazi aperti, spazi chiusi, anche questo racconto appunto di cose intime ma che comunque invece poi riportano a un certo tipo di spiritualità, nel senso, se vogliamo, più laico del termine, cioè quindi insomma un certo tipo di ragionamento sulle connessioni, sulle relazioni. È un artista da questo punto di vista molto interessante. Ho letto una lunga intervista che le è stata fatta, insomma, all'uscita di questo disco, dove lei parlava della casa, che non ce l'ha più, perché ha avuto per un lungo periodo, visto che è stata sempre in giro, ha detto: a New York ho fatto casa, ho preso tutte le mie cose. Però tipo 4 settimane prima che facesse questa intervista era andata a fuoco in quel momento, almeno. Poi non so adesso se è cambiata la sua situazione, stava vivendo in un albergo. E quindi si interrogava pure lei su questa storia di cosa è casa, cosa non lo è. E quindi probabilmente, insomma, il titolo dell'album I Keep My Feet on This Fragile Plane è un po', esatto, diciamo, legato a questa, come posso dire, fragilità delle cose. Forse questo è il tema di oggi, perché anche alcune altre canzoni, insomma, hanno questo, no, di non dimenticare che tutto può cambiare improvvisamente, quindi di goderci l'attimo e di starci nell'attimo che stiamo vivendo. Allora, il prossimo pezzo, se riconoscete che cover è, allora ce lo dovete dire, perché vi interroghiamo. 0649 1750, chiamateci. Love My Way, e loro sono gli Share. Questa era Love My Way nella versione di Cher, che è un progetto, diciamo, chissà se avrà un seguito, non lo sappiamo, ma che appunto ha proposto due... Diciamo che questa cover ha entusiasmato talmente tanto che ora sarà difficile per loro non fare qualcos'altro. Esatto. Niall Marr e Kaylin Allen Kebsbach sono appunto i componenti di questa di questo duo appositamente creato. Entrambi, Niall Marr e Kaylin, hanno percorsi musicali paralleli, tutti e due nella, diciamo, nell'indie rock, anche se insomma con un background musicale diverso. In particolare Kaylin è, diciamo, fondatrice e quindi insomma si esibisce sotto lo pseudonimo di Vilma Blaven Miner, e questa era una cover di un bellissimo pezzo che stavo ascoltando in sottofondo di Psychedelic Furs. Allora ci devi dire chi sono, però. No, se lo sapete, allora no, avete il tempo fino alla prossima settimana, che è la 64esima puntata, per capire. Cioè, i Blonde Red Dead e i Psychedelic Furs, non è che possiamo fare tutto noi, oh. Vabbè, dai, di qualcosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. No, così, dai, due dritte, non lo che, so. Se non hanno mai ascoltato questo pezzo che stanno ascoltando in comunque sottofondo, faccio coming out, io non l'ho mai ascoltato. Che non va, c'è qualcosa che non va, e io invito a ripercorrere il percorso musicale di Psychedelic Furs. Va bene, la maestra ci ha dato i compiti per la settimana prossima, mi raccomando, fateli e fateli tutti. E nel mentre che sono le 19.49 invece proviamo ad andare avanti con la scaletta di Likewise di questa sera. Come vedete, abbiamo ascoltato e stiamo spaziando tra cose diverse, come ci piace sempre fare, quindi in qualche modo ricambiamo genere musicale con Save You Schneider. Dall'EP Blue Oblivion, questa è Schneider. Yes, ma non mi ricordo come si pronuncia il suo nome. E il pezzo si chiamava Save You. Allora, se l'ascoltate, questa è una tua pupilla proprio. Sì, una mia pupilla. In realtà, quando l'ho ascoltata, non sapevo bene chi fosse, quanti anni avesse. Poi, per raccontarvi anche a voi e anche per saperne un po' di più, sono andata un po' in giro a cercare un po' di cose e ho scoperto che lei effettivamente ha solo 16 anni. Tu sei giovane. Quanto sono giovane dentro. E quindi, insomma, questo EP che è appena uscito, che Blue Oblivion ha 6 tracce, è uscito a maggio del 2023. In realtà io la prima volta che l'ho ascoltato, infatti poi l'avevo scritto anche a Don, ho detto guarda, mi sembra forse un po' troppo commerciale. Poi in realtà l'ho riascoltato e riascoltato e riascoltato, perché tanto si fa facile, sono 6 pezzi, fai un po' il loop e invece mi è sembrato sempre più profondo e più interessante e soprattutto per niente banale. Sta avendo tantissimo riscontro di critica e appunto è molto particolare, perché lei è veramente veramente giovane e descrive lei stessa il suo sound come vintage e doloroso. Perché effettivamente è vero che c'è questa questa assenza, essenza senza tempo, come se fosse un cenno agli anni 50, un po' al futuro, cioè non è collocabile tantissimo, che è il motivo per cui quando uno scopre che ha soli 16 anni dice ah perbacco, complimenti. E in realtà è una cantautrice haitiano-americana e ha un suono che sicuramente affonda le radici in tutto quello che c'è già stato, ma riesce a mantenere comunque una certa dose di autenticità. Quindi ve la consiglio. Beh, potevi fare una presentazione migliore, Pinclo. Beh, insomma, a me mi ha incuriosito quando l'hai spinta, quindi insomma mi sembra un ottimo EP di esordio, considerata l'età, considerato insomma che mi fa pensare un po' a Clairo come artista, insomma queste giovanissime bedroomer che appunto fanno un po' tutto quello che è la loro musica, quindi anche da un punto di vista della produzione, quindi veramente molto interessante. Pinclo, siamo in anticipo. Può essere. Ma è incredibile. Guarda, ma in realtà avremmo tanti di quei pezzi che potremmo essere. Potremmo allungare la scaletta, ma no. Ma non lo faremo. Chiuderemo puntuali, come giusto che sia, per rispettare, insomma, i tempi di tutti, e chiudiamo questa scaletta con un pezzo che già penso state sentendo in sottofondo, che si chiama Frozen Peace e sono le Neon Kittens. Kittens, in realtà abbiamo ascoltato People in Glass Houses, perché ti ho fregato. Vabbè, capito? All'ultimo momento il pezzo, perché allora ero indecisa fino all'ultimo momento. Tra l'altro non ce l'ho io la scaletta davanti, quindi ovviamente non lo so. va bene perché Massimo, in realtà questa è una parte, diciamo, anche della nostra, del nostro modo di crearle queste scalette. Neon Kittens, che lei è un po' Amleto, tipo, passa tutti i giorni, è vero, tutti i giorni sono indecisa. No Drugs Required è il titolo dell'album, uscito per la Metal Postcard Records, e devo dire che è una band, c'è molto New York in questo, in questa vero. Nostra scaletta, abbiamo come al solito notato dopo, perché poi alla fine ce ne accorgiamo, sai, il che tema c'è... lo scopriamo sempre alla fine, come, esatto. Penso come loro che fanno tutte le tracce dell'album, poi qualcuno in intervista dice: ah, ma tu avevi pensato questo? No, veramente, poi l'ho capito dopo, più o meno uguale noi. Voce e testi di Nina Kay, Nina Kitten probabilmente, e devo dire che cioè, insomma, questa è una band che mi piace moltissimo, il sound mi piace moltissimo. Ma intanto lo sai da dove arriva il nome? Di Neon Kittens? No, in realtà no, dimmelo tu. Da un il nome è preso da un testo non ascoltato, come dicono loro, come dice, degli Ultravox. Ah, vedi? Ah, ci sta, ci sta. Perché amano la New Wave, si sente, sì, la New Wave è quella di Battiato, però la New Wave post-punk, sì, avant-garde, New Wave, insomma, moltissime ispirazioni che ci piacciono tanto da queste parti. Io l'ho riconosciuto quando ho ascoltato il loro album, tantissimo il suono di una band che io adoravo, che adoro ancora, che si chiama Bush Tetras, un'altra, diciamo, dritta oggi da andare a recuperare, un'altra band post-punk anni 70 come Psychedelic First. Ah, ci ho dato un indizio. Infilate questo anche nell'agendina e ascoltatevele. E davvero questa settimana chiudiamo puntualissime, quasi, cioè, ci possiamo fare. Mi viene da piangere. So, allora sicuramente sì, perché gli lasciamo lo studio così possono prepararsi con calma, quindi saranno felici che per una volta non gli diamo il tempo di prepararsi anche a loro con molta calma. Vi ricordiamo di restare all'ascolto quindi di Radio Onda Rossa, di sostenere questa radio partecipando alle iniziative che trovate in giro per la città, e quando non ci sono le iniziative di andare sul sito della radio e cercare il modo per sostenere la radio, di ascoltarla soprattutto in questi giorni molto complicati e molto difficili, dove è difficile navigare tra le informazioni, riuscire a capire ciò che è vero, ciò che non è vero, e anche riuscire a farsi un'opinione un po' più stratificata e complessa di quello che accade in Palestina. Quindi vi rimandiamo ad ascoltare la rassegna stampa della mattina, i redazionali, e a cercare tutto quello che non siete riusciti ad ascoltare in diretta sul nostro sito della radio www.ondarossa.info, dove trovate tutti i podcast. E noi ci vediamo la settimana prossima. E noi ci vediamo la settimana con prossima con una super scaletta, perché abbiamo già delle cose che non sono arrivate in questa, ma già pronte per la prossima. Stiamo ascoltando in sottofondo la nostra sigla, che è Undumpable di Moonchild Sanley, artista sudafricana. Diciamo qualcosa su di lei. Di artista sudafricana. No, giusto due cose. Noi andiamo a svelare piano piano. Sudafricana che ha coniato per se stessa questo genere di musica future ghetto funk, che insomma ci piace molto. Ciao, la settimana prossima, buon proseguimento con Radio Onda Rossa. Ciao.